sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Se qualcuno pensa che questo sia il libro elettronico si sbaglia. È la mia antica e seppellita voce elettronica che legge Leopardi. È semplicemente una facezia, un gioco. Il libro elettronico è ben altra cosa. È la possibilità di avere condensato attraverso un file appunto elettronico un libro, tanti libri, decine di migliaia di libri, milioni di libri. Oggi è stata data notizia sui giornali che il 19 ottobre arriverà in Italia Kindle, che sarebbe il lettore di ebook di Amazon, cioè un piccolo attrezzino come fosse una visore tascabile che ci permette di leggere decine di migliaia di libri. Voi direte, ma come già mi stanno scrivendo su Facebook i nostalgici neoluddisti, ma vuoi mettere il sapore e il profumo di un libro nuovo, il piacere della carta, il sottolineare? Voi sapete quanto io sia stato un avversario strenuo del feticismo del libro. Amo i libri, ma soltanto alcuni libri, libri che vale la pena di leggere, libri che vale la pena di conservare. Io quest'estate ho fatto uno sterminio sistematico e organizzato di centinaia di libri a casa mia. Ho minacciato, avrei buttati nel cassonetto, e subito le vestali impietosite sono venuti a prendersi. Sono stato contento perché invece che metterli nel cassonetto differenziato della carta, ho permesso altre persone di leggere libri che a me non interessavano più. Ma soprattutto questa rivoluzione, questo passaggio, questa osmosi dal libro concreto, bello, pieno, denso di sensi romantici, di storia, di stratificazioni sensoriali, ma che però riempie le nostre case, ci crea dei problemi di abitazione, di coabitazione. Io ho avuto necessità di recuperare una stanza a casa mia vuotandola dai libri. E adesso ci giocano i ragazzi, sono felici. E prima era piena di libracci che non guardavo più, non sapevo che farne. Mi sarebbe utile avere da qualche parte conservato quella che è l'anima di quei libri, ma purtroppo tutti quei libri non erano stati appunto riversati in un supporto elettronico e quindi oggi sono diventati cellulosa da macero. Invece un altro dei problemi che ha fortemente riempito di dubbi gli anni precedenti è vedere i miei ragazzi andare dalla prima elementare fino al ginnasio attualmente a scuola con degli zainetti che pesavano decine di chili. E non se ne poteva fare a meno. Dico, ma perché porti questi libri a scuola? Perché li portano tutti? Perché la maestra vuole che li portiamo? Perché la professoressa vuole che li portiamo? Sembra ci fosse questa sorta di insopprimibile bisogno di caricare i bambini con decine di chili di libri. Quando sarebbe stato molto più semplice che ognuno si portava la propria chiavetta con dentro un semplice file PDF dei libri che dovevano leggere, potevano sottolinearli elettronicamente. Avrei comprato un laptop a mio figlio, sarebbe stata una spesa giustificata dalla sua piccola spinina dorsale, oggi probabilmente gravemente compromessa. Beh, il tema è questo: l'editoria elettronica, i libri elettronici, perché non ci avviamo decisamente verso un passaggio cruciale, trasformare tutto ciò che noi abbiamo sempre avuto a casa come feticcio ineludibile della nostra esistenza in qualcosa di facile uso e consumo. Questa mattina ho con me un ospite che avete già sentito altre volte, che è Giampiero Lotito. Lotito, buongiorno. Buongiorno. Che è un esperto di motori di ricerca, ha insegnato editoria multimediale presso un master dell'Università degli Studi di Milano, è autore di Emigranti Digitali, Origine e Futuro della Società dell'Informazione, dal 3000 al 2025 d.C., per Bruno Mondadori. Giampiero, cominciamo a fare il punto. Esiste un senso profondo e anche fastidioso di essere accusati di dissacrare uno dei punti più indissolubili e ipocriti su cui è fondata la nostra cultura, che è il feticismo del libro. In cosa può cambiare il rapporto tra uomo e libro con la diffusione dell'editoria elettronica, soprattutto degli ebook. Il libro non è sempre stato come lo conosciamo. Secoli fa, anzi millenni fa, erano addirittura papiri da svolgere, quindi oggetti molto difficili da maneggiare. Poi sono diventati enormi libri di pergamena intrasportabili. Poi, grazie a un italiano, Aldo Manuzio, è venuto fuori il libro portatile e poi ha preso le forme che nei secoli abbiamo imparato a conoscere. Quindi il problema è la forma, il formato libro, cioè il modo di leggere conoscenza così come organizzato nel libro, che sicuramente rimarrà. Poi potranno venire sicuramente libri elettronici o altri contenitori diversi da quello che conosciamo. Quindi il problema della sopravvivenza del libro, che è cosa che ha sottolineato anche Umberto Eco nel suo ultimo libro, non è tanto quello del contenitore, ma del modo in cui la conoscenza viene trasferita. Non dimentichiamo che questo è un problema che è stato già in parte affrontato e messo a disposizione di tutti da parecchi decenni. L'invenzione del PDF di Adobe mi sembra abbia una ventina d'anni ormai. Sì, sì, era un progetto che si chiamava Camelot, che è stato creato dal fondatore di Adobe, da John Warnock, e questo progetto partiva dalla frase «la lettura è un diritto per tutti». Quindi loro volevano creare una tecnologia che permettesse di leggere gratuitamente qualsiasi cosa e hanno creato Adobe Reader, che è l'oggetto che si scarica gratuitamente, nostri... esatto. Che ci permette di leggere presentazioni, libri addirittura. Quindi in teoria il processo di transumanza dal cartaceo all'elettronico sarebbe possibile, perché ogni editore ha tutti i suoi libri naturalmente in un formato elettronico, perché oggi l'editoria parte da un file elettronico, poi lo stampa su carta. Sì, questo ormai sì, decisamente. I problemi e i vantaggi possono essere nella fruizione. Io un libro elettronico lo posso ricercare al suo interno, quindi posso fare delle ricerche che nel libro cartaceo sono più faticose, però il libro cartaceo me lo posso leggere in treno comodamente, in spiaggia, non ho problemi di luminosità come può darlo un ebook, o non mi si scarica la batteria, che può essere un altro dei problemi che ci sono. Il vantaggio di un ebook è quello che mi posso portare dietro 100 libri, 1000 libri contemporaneamente, una documentazione enorme anche per ragioni professionali. Ogni cosa ha un vantaggio e uno svantaggio. La cosa fondamentale è ricordare sempre che la tecnologia è darwiniana, cioè elimina l'inadatto. Finché qualcosa... Quindi c'è una selezione di ciò che non è più funzionale al nostro vivere razionale. Ma non elimina, come pensano alcuni, il precedente, ma solo l'inadatto. E voi che lavorate in radio sapete benissimo che dopo 40 anni che dicono che la radio muore il giorno dopo, è ancora qui. Il bello della radio è che è morta e risorta, non ha più bisogno di essere rappresentata in un altro, ma è ovunque. Allora, visto che ho posto una domanda molto precisa, un mio problema personale che penso condiviso da molti ascoltatori, quello della massa infinita di libri non portarsi dietro gli studenti, abbiamo al telefono Giovanni Biondi. Giovanni Biondi, buongiorno. Buongiorno. Che è capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Lei sta lavorando da parecchio tempo sul progetto da lavagna interattiva multimediale. Ecco, ci sono delle date realmente perseguibili per poter determinare anche nella scuola italiana questo passaggio dal cartaceo all'elettronico? Ma dunque, innanzitutto il progetto è già iniziato, quindi noi abbiamo già oltre 10.000 lavagne installate nelle scuole medie, diciamo, in questo momento, e quindi si tratta di un progetto che è già stato avviato. Dovremmo entro l'anno riuscire a installarne altre 10.000 sempre nelle scuole medie, e poi stiamo aprendo proprio nel prossimo mese alle scuole elementari e alle scuole superiori. Ecco, come funziona, solo per spiegare a chi la lavagna elettronica multimediale è ovviamente una superficie piuttosto grande, circa 78 pollici, collegata a un computer sul quale praticamente si può non soltanto scrivere ma anche assemblare conoscenze, usare filmati, usare cioè quei linguaggi multimediali che sono propri dei digital native, cioè della nostra generazione di studenti che siede oggi. Il problema è che chi sta dietro la cattedra è un po' meno addestrato agli strumenti digitali. Io guardi, ho avuto guerre strenue con maestre, professoresse di scuola media, professoresse di medie, e spero di farlo anche al liceo, perché mi guardano come un depravato, perché provavo a dire che mio figlio aveva una facilità di leggere anche supporti elettronici. Infatti vede, il vantaggio della lavagna è esattamente questo, che è una sorta di cavallo di Troia, perché gli insegnanti, mentre il computer lo rilegano, diciamo, nel laboratorio dove ci si va ogni tanto, e noi con l'inserimento delle lavagne abbiamo preteso che le lavagne vengano installate nelle classi, non sono lavagne da lavoro. Quindi sono costretti gli insegnanti a usarlo. È un obbligo, esatto, quindi sono costretti a usarlo. E come avviene normalmente, l'innovazione avviene per contagio, per cui inizialmente magari la cominciano a collegare, a utilizzare due o tre insegnanti, poi l'altro si incuriosisce, eccetera. Tutto il piano, però, che volevo dire, dell'inserimento delle lavagne è accompagnato da un piano parallelo di formazione. Quindi durante tutto questo anno scolastico gli insegnanti che hanno la lavagna in classe saranno, diciamo, seguiti e aiutati nell'utilizzo dei tutor, quindi abbiamo circa... È più facile che siano gli alunni stessi a insegnare all'insegnante? Sicuramente, no, guardi, le esperienze che abbiamo in questi anni ci dimostrano questo, che la mattina magari i ragazzi accendono loro la lavagna e quando arriva l'insegnante gliela fanno trovare già pronta. Ma questo è un momento di passaggio che fatalmente è necessario, però... Certo. Però vede, modificano queste cose, modificano anche alcuni aspetti, diciamo, fondamentali dell'ambiente di apprendimento. Lei pensi soltanto che con queste lavagne noi abbiamo lavorato con scuole di piccole isole, consentendo a bambini diciamo, che altrimenti avrebbero dovuto emigrare e chiudere la scuola, ma lo stesso Niki, il bambino che vive in barca a vela, ha utilizzato una lavagna collegata a internet. Sì, spieghiamolo, è un bambino che ha una particolare patologia, sì, che esatto, deve stare per forza in quel tipo di ambiente, esatto, per lui salvo, e deve studiare a distanza. E sta facendo la scuola media, lui ha una piccola lavagna, in classe hanno una lavagna più grande, con una scuola di capaci, e è già al secondo anno e le cose stanno funzionando, quindi... Ecco, volevo un attimo, mi fermo un attimo con lei Biondi, introdurre che abbiamo al telefono un insegnante, un docente di scuola primaria a Cittadella di Modena, che sono 6 anni che usa la lavagna elettronica, Ivan Sciapeconi. Com'è possibile? Lei ha anticipato addirittura le direttive ministeriali per una sua iniziativa privata? Buongiorno, sì, probabilmente sì, noi ci siamo fatti finanziare un progetto da una fondazione e questo 6 anni fa abbiamo acquistato le lavagne con l'intenzione di superare proprio la logica del personal computer, così come diceva Biondi. E ci siamo accorti però che diciamo, mentre noi siamo partiti non c'erano ancora dei software adatti per fare quello che pensavamo noi, cioè mettere le lavagne elettroniche all'interno delle normali aule. E quindi ci siamo dovuti anche costruire dei programmi tutti nostri per... Avete proprio sviluppato il software necessario? Sì, abbiamo sviluppato il software perché noi abbiamo cambiato radicalmente la struttura delle nostre aule. Abbiamo inserito dei tavoloni al posto dei banchi normali per far lavorare i bambini in apprendimento cooperativo e interagire con la lavagna elettronica. E diciamo, un approccio di questo tipo non ha un software già sviluppato da... Ecco, quello che mi domando, e si domanderanno anche i miei ascoltatori, di tutto l'aspetto cartaceo che fa parte della didattica quotidiana, che ne avete fatto? Beh, su questo siamo stati avvantaggiati perché sia io che la mia collega siamo anche autori di sussidiari didattici e quindi abbiamo un po' vissuto sulla nostra pelle questa contraddizione, che poi contraddizione non è, perché diciamo, le tecnologie non sono solo la soluzione del problema del peso dei libri, ma anche la soluzione del problema, o possono essere la soluzione del problema, delle fonti per la didattica e per lo studio. Nel momento in cui io ho solo un testo cartaceo, quello è, diciamo, già filtrato. Nel momento in cui io posso utilizzare la lavagna elettronica per andare su internet, cercare informazioni, validarle, questo è già un passo avanti su una importante questione educativa. Fermiamoci qua un secondo perché ho una domanda da fare all'Utito Studio. Intanto ricordo il numero di telefono 800240024, vi sarete posti anche voi il problema di perché i ragazzi debbano continuare in un momento in cui noi ci portiamo in una chiavetta USB tutto il nostro lavoro di una settimana, di un mese o forse anche di tutta una vita, debbano ancora andare come piccoli atlante a scuola piegati sotto i loro zainetti. Quindi chiamate e fateci sapere la vostra esperienza, il vostro punto di vista. Però Gian Piero Lotito, già io vedo l'inizio di un problema. Giovanni Biondi mi parla di una sperimentazione che partirà effettiva nella scuola. Ivan Sciapecone ha già iniziato, già abbiamo due standard probabilmente non comunicanti fra di loro. Chi definirà poi l'idea, il Kindle parte, ma sarà uno standard che non sarà compatibile con altri standard. Quale sarà la guerra, come per Apple e diciamo i computer su IBM compatibili, come si diceva, come VHS beta, via dicendo? Si aprirà la guerra anche per il formato elettronico? Sì, ormai questo è un passaggio inevitabile per le tecnologie della comunicazione ed è un processo che in genere richiede dai 5 ai 10 anni in tutti i settori, quindi è normale che questo accada, per cui aspettiamoci questo periodo un po' di confusione, a meno che non ci siano da parte dei governi, da parte delle istituzioni, perlomeno sull'aspetto scuola, la definizione immediata di standard tecnologici e di utilizzo che permettano di accelerare in un comparto chiuso come quello della scuola il processo. Giovanni Biondi, vi siete posti questo problema, immagino? Siamo posti questo problema e per noi, per la verità, è già risolto, nel senso che sulle lavagne, le lavagne prima di tutto sono collegate a computer e sono multistandard, utilizzano tutti i sistemi operativi da Linux, Macintosh, qualunque tipo di sistema operativo sulla lavagna ci va, come ci va qualunque tipo di formato, perché la lavagna sostanzialmente è soltanto una superficie, quindi è diciamo il computer che poi dialoga con la lavagna e permette di fare... Ma le lavagne stanno anche in rete, mi scusi? Sono anche in rete le lavagne? Le lavagne sono collegate in rete, se vogliamo. Infatti molte scuole fanno esperienza, per esempio, di insegnamento linguistico con classi di altri paesi europei. Quindi sono collegabili in rete, allargano la distanza. Addirittura noi utilizziamo la lavagna per registrare la lezione, perché la lavagna registra non solo la voce dell'insegnante, ma anche tutti i passaggi, diciamo, che avvengono sulla lavagna. E un ragazzo che magari quel giorno è ammalato, è a casa, non è potuto partecipare alla lezione, sul server della scuola può vedere la lezione, cioè sentire l'insegnante e vedere tutti i passaggi. Senta Biondi, proprio prima di dare la linea alle informazioni della borsa, nel 2011 sarà obbligatorio per tutti usare l'ebook? Un momento, l'ebook è un'altra cosa, l'ebook è un device, cioè l'ebook è una struttura... Quindi andranno a scuola se vogliono con i libri, ma avranno una lezione elettronica? No, un momento, noi stiamo cercando di ragionare in termini di libro misto, cioè di diciamo testi che dalle attuali 350 pagine mettano diciamo la metà in digitale, perché gli esercizi, le carte geografiche, documenti storici, le dimostrazioni possono diventare ambienti interattivi, possono diventare file diciamo che si possono fruire in modo molto più efficace in digitale, mentre il libro deve diventare una sorta di filo d'Arianna che guida poi nelle competenze essenziali, quindi può diventare un libro di 100 pagine. Ora dico, semplifico diciamo il problema. Quindi però, non spariranno comunque i libri del 2011, questa è la domanda. Non spariranno assolutamente, sono d'accordo sul fatto che il problema è la rappresentazione delle conoscenze, cioè nel libro il modo di rappresentare le conoscenze è un modo che non sparirà, io su questo sono totalmente d'accordo. Ci fermiamo un attimo per dare la linea alle informazioni alla borsa, vi prego chiamate 800 24 00 24, dopo non vi stracciate le vesti come vergini martiri, perché il passo dell'elettronica sta invadendo anche gli sacri spazi dell'insegnamento scolastico, evidentemente è un segno dei tempi su cui bisogna anche fare delle considerazioni. Stiamo parlando del doloroso ma necessario passaggio del caro vecchio libro cartaceo, feticcio di ogni nostra velleità incompresa, a qualcosa di impalpabile ma di fruibile attraverso un lettore. Ci portiamo dietro, come ci portiamo dietro un telefonino, una macchina fotografica, una calcolatrice, un'infinità di protesi racchiuse magari in un solo strumento che ci permetterà anche di leggere i libri. Daniele, è d'accordo? buongiorno. Sì, sono d'accordo, io sono un fruitore assiduo di tecnologia, soltanto che volevo dire una cosa, io ho provato a mettere un ebook sul mio telefonino, un telefono abbastanza grande, con uno schermo grande. Guardi che il Kindle è grande, penso quasi come un foglio A4, un pochino più grande. Esatto, io interessato a questa cosa ho visto su Amazon.com che c'è la possibilità già di prenotarlo, soltanto che poi ho letto anche i commenti di chi già l'ha usato e non sono commenti entusiasti, perché il discorso dello studio su un ebook dicono che è praticamente impossibile. Sì, a me l'hanno detto molte persone, mai sperimentato, ma adesso avremo altre persone che parleranno, che hanno già sperimentato. È facile leggerci un libro, è comodo perché uno può stare steso in un divano e avercelo in mano come un libro, studiare è un pochino più difficile, questo è vero. Sì, penso sia difficilissimo, perché poi la carta ti permette di fare un iperlink, nel senso che tu da pagina 10 passi immediatamente a pagina 30 dove hai il segnalibro di carta messo lì e quindi è sicuramente più veloce di un ebook come metodo interattivo di studio, secondo me. Un libro, parlo di studio, di lettura sicuramente sarà più agevole, più bello, anche immagino sarà corredato da una musica di sottofondo con immagini magari che scorrono sotto filigrana, insomma c'è da divertirsi su questa cosa. Sentiamo Davide. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Per sentire un po' di pareri di ascoltatori, visto che... Buongiorno, sì. Ma io mi ricollego un po' all'ascoltatore precedente, Daniele, che parlava dello studio. Effettivamente io, come molti altri che veniamo da uno studio essenzialmente cartaceo, che però abbiamo scoperto l'ebook, i libri elettronici, eccetera, effettivamente almeno io trovo che da un punto di vista della fruizione pura del contenuto... Effettivamente un libro elettronico cartaceo sia più o meno la stessa cosa, nel senso che uno lo può fruire anche in ambienti diversi, lo può fruire a livello di apprezzamento del contenuto, però dal punto di vista dello studio, secondo me, dal punto di vista proprio anche della capacità di assorbire nozioni, il fatto di poter sfogliare un libro, il fatto di poter vedere la propria sottolineatura, i propri appunti, eccetera, favoriscono molto di più l'apprendimento e la memoria di ciò che uno sta studiando, nel senso che ho sempre trovato all'università e anche nei corsi del liceo, eccetera, che sottolineare, scrivere, rifare praticamente le lezioni sul proprio libro sia qualcosa che aiuta molto l'apprendimento e la memoria. Guardi, anch'io sono passato per queste fasi. Io penso che comunque le nuove generazioni, i digitali nativi cosiddetto, rimetteranno a punto altre maniere per personalizzare l'apprendimento attraverso un testo. Ho detto, se non oggi esistono evidenziatori colorati, ai miei tempi si sottolineava con le matite, perché si diceva i libri non vanno deturpati con la penna, si aggiungevano macchie d'unto di fette di mortadella dei panini che ci davano i salesiani. Ognuno ha la sua forma per segnare fisicamente, biologicamente il supporto del sapere. Ne troveranno altri, gioiosamente, immagino. Gianmario, buongiorno. Buongiorno. Io credo che l'ebook e il libro sono due cose fondamentalmente completamente diverse. E uno è completamente interattivo, è agli albori, e anche la tecnologia che permette l'ebook di funzionare, quindi verrà evoluta moltissimo, permettendo anche la gestione degli appunti, la gestione del con i touchscreen evoluti, andranno a essere estremamente più precisi. Sì, anche perché ancora stiamo parlando di una tecnologia, di un hardware che è poco conosciuto e poco usato, che si evolverà, sì, come sono evoluti tutti gli hardware degli oggetti che abbiamo usato per apprendere. Vediamo mese per mese i telefonini che aumentano la loro capacità di touchscreen, così sarà anche per gli ebook. Dal punto di vista del libro rimane un must che assolutamente non verrà a essere dimenticato per volere stesso dei fondatori dell'iBook degli formati elettronici, come Bill Gates fece la sua biografia e decise di stamparla su un supporto cartaceo, quindi su un libro. E, indubbiamente ci sarà l'evoluzione e non potrà essere fermata in nessun modo, perché permetterà dei nuovi orizzonti. Esempio, io quando ero bambino odiavo sti libri, invece faccio l'informatico a 20 anni, ho sempre usato supporti multimediali e che permettono, anche mio figlio vedo che impara 10 volte prima e 10 volte di più con un supporto multimediale che permette le ricerche approfondite, molto veloci. Enrico, andiamo a Enrico, la saluto Enrico, che è un informatico. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Velocemente. Informatico. Velocemente, io mi ponevo invece il problema da un punto di vista di salute, ovvero stare costantemente davanti a dei supporti retroilluminati, io credo che non sia particolarmente salubre per quanto riguarda bambini o ragazzini comunque in evoluzione con la loro vista, con il loro fisico. Io sto dietro a un computer parecchie ore al giorno e in effetti un po' accuso. Non voglio immaginare. Diciamo che il problema alle diottrie dei bambini ha sempre molto colpito e ha preoccupato gli educatori, ma in particolare oggi penso siano dei display che sono come quello appunto di alcuni telefonini di generazione avanzatissima, che sono abbastanza facili da leggere e creano pochi danni. Ma comunque, visto che il problema è fra schiene deturpate e occhi arrossati, vedremo se qualcuno dal punto di vista clinico ce lo può risolvere. Solo velocemente, Giampiero Lotito, che è in studio con me, esperto di motori ricerca e di editoria multimediale. Ne parlavamo prima, proprio che ha chiamato l'amico informatico ascoltatore, il tema è in corso. Noi abbiamo una generazione di studenti che hanno un'alfabetizzazione avanzatissima nell'uso di display, nell'uso di schermi, per cui il telefonino è il primo strumento, oltre che di apprendimento, anche di contatto emotivo. Può essere messa insieme questa loro attitudine con l'editoria elettronica? E ci sono esperimenti interessanti in Europa da questo punto di vista. Sarebbe stato interessante ed è interessante capire cosa accade anche in Italia nell'uso del telefonino, perché quello che si legge sui giornali è che generalmente viene proibito, mentre ci sono paesi come la Danimarca, come l'Olanda, dove c'è più attenzione al fatto che il telefonino sia lo schermo principale dei ragazzi, dove si cerca di utilizzarlo per apprendere con dei progetti particolarmente innovativi. Già che lo usano, tanto vale insisterci. Abbiamo al telefono Paolo Ferri. Paolo Ferri, buongiorno, che è docente di tecnologia didattica, teoria buongiorno. E tecnica dei nuovi media. Ciao, buongiorno. All'Università degli Studi Milano Bicocca. Mi hanno rivelato un episodio personale e intimo della tua vita di docente, me l'ha detto Lotito poco fa, e ti prego di raccontarlo. Una volta, durante una lezione, vedesti una studentessa intenta a mandare e ricevere SMS. Irritato, l'hai chiamata, hai fatto a lei domande cattivissime, e come ti ha risposto? No, non è così. Beh, sai, poi crescono le leggende. No, è evidente che i nativi digitali, o come li vogliamo chiamare, hanno una capacità di gestione anche in multitasking di strumenti diversi e ovviamente messaggiano mentre ascoltano la lezione, con risultati a volte devastanti rispetto alla lezione e a volte no. Questa era stata attenta però. Questa era stata attenta e peraltro rispondeva a tono, quindi il problema era che era in grado di parlare con me e nello stesso tempo di messaggiare senza particolari difficoltà. Io volevo riagganciarmi se posso, certo, a una cosa che dicevano gli ascoltatori. Non penso proprio che i miei ragazzi già hanno sviluppato modalità di gestione del testo digitale, nel senso che banalmente copiano e incollano dal PDF in un file di Word e poi se lo lavorano come gli pare, evidenziandolo in tutti i colori del mondo. Quindi suppongo che la diffidenza evidente che noi abbiamo rispetto al passaggio di supporto, perché poi la lettura è sempre la stessa, sia legata alla sacralità del libro. Quindi mi dai ragione che i nativi digitali mettono a punto, secondo sì, loro codici, maniere di memorizzare e rendere fisiche e viscerali anche sì, le cose digitali, anche il sapere. Fanno proprio il testo, tant'è vero che il problema è quello di poi fargli riconoscere che il testo che hanno copiato non è loro, cioè nel senso che poi si sviluppa questa. Beh, abbiamo cultura. Illustri scrittori, filosofi e pensatori che non si sono posti questo problema. Massima sintesi a tutti gli ospiti, soprattutto a Paolo Ferri, che ho erroneamente chiamato Mario, ma ho davanti una lista di almeno 10 persone che vogliono intervenire. Paolo Ferri, dal punto di vista proprio del docente, ecco, come cambia l'approccio avendo davanti degli studenti che ormai, devo dire, non è un problema tuo, ma di questi strumenti ne masticano quotidianamente, solo per loro non soltanto strumenti di apprendimento scolastico, ma sono le macchine delle più fantastiche derive ludiche, si amano, ci si corteggiano, ci giocano, quindi per loro è molto più facile. Assolutamente, è assolutamente necessario per per farsi capire e adottare i loro linguaggi. Cioè, lo stile di apprendimento è mutato radicalmente, fatto di video, podcast, testi, lettura, quant'altro, e il docente non può che adattarsi, pena l'impossibilità della comunicazione educativa. Non ti voglio far sbilanciare, ma trovi che questo sia un atteggiamento abbastanza percorribile, no, o no, abbordabile da parte del corpo docente italiano, partendo dalla scuola materna fino all'università? Sbilancio senza paura, al momento no, non è minimamente percorso, anzi molto spesso salendo nei gradi dell'istruzione diventa sempre più complesso far comprendere queste cose, e lì sta il problema, cioè nel senso che l'annoiarsi degli studenti, per esempio alla scuola media superiore, in parte o molto spesso deriva proprio da questo. Cioè deriva da sì, quello che... penso, Salmo, hai detto giustamente, il momento cruciale, la scuola media superiore. Gli studenti sono già padroni delle tecnologie, del linguaggio e della maniera di porsi nei confronti, appunto, proprio della tecnologia digitale. Gli insegnanti appartengono a una categoria intermedia molto difficile. Hanno una sorta di senso preconcetto di resistenza nei confronti di qualcosa che sembra voler poter spodestare la loro leadership di insegnanti. Quindi è un momento cruciale. Lì bisognerebbe intervenire di più. Esattamente, perché lì proprio si divarica al massimo livello lo stile di insegnamento rispetto allo stile di apprendimento, quindi si annoiano. Ivan Sciapeconi, l'avevo fatto parlare prima, che è il primo insegnante che ci ha provato da solo con mezzi suoi, con il suo software. Lei questa divaricazione l'ha sofferta molto? Tra lo stile di insegnamento e lo stile di apprendimento? Sì, soprattutto nel giudizio dei suoi colleghi. Non molto, a parte alcune ovviamente difficoltà iniziali, anche perché se si va su Google e si cercano blog didattici, viene giù fuori di tutto, normalmente per la scuola primaria. Questo significa che forse nella scuola primaria in questi anni qualche cosa è stato fatto e c'è una grande sensibilità. Forse il problema è più di altri livelli di scuola. Una cosa che volevo sottolineare rispetto a quello che diceva Paolo Ferri è che c'è sicuramente una questione legata allo stile di apprendimento, ma le nuove tecnologie rivoluzionano anche l'ambiente di apprendimento, che è fondamentale. Per cui, ma anche il clima che si stabilisce nel rapporto fra docente e studente, immagino. Decisamente sì. Nella scuola primaria c'è lo stupore, per cui quando un bambino di prima tu metti davanti una lavagna elettronica l'effetto è quello del wow, insomma. E poi man mano che si va avanti i bambini percepiscono che quella tecnologia lì è uno strumento fondamentale per imparare e quindi hanno anche una visione diversa rispetto alla tecnologia che vivono a casa, che è prettamente una tecnologia ludica. Fino agli 11 anni perlomeno questo è il passaggio. Quindi a loro sembra impossibile che il giocattolo diventa anche strumento di apprendimento scolastico, è una sorta di metodo Montessori applicato all'elettronica. Esattamente, e poi c'è una diversa percezione del gioco, perché noi non presentiamo giochi didattici ai bambini, presentiamo attività didattiche in cui la tecnologia è un supporto e quindi c'è il divertimento, la voglia di apprendere e contemporaneamente la serietà nel fare. Lei sa bene, Sciapeconi, quanto la tecnologia sia stato e è tuttora oggetto dei più grossi anatemi, perché allontana la naturalità e soprattutto la tecnologia elettronica legata alle reti è il luogo della massima perdizione e dei più grandi pericoli all'integrità del fanciullo. Capire che queste cose sono anche l'ambiente, l'humus in cui è più facile avere un contatto radicale e didattico importante con minorenni nativi digitali è un bel passo avanti, andare contro un preconcetto bello consolidato. Credo di sì, è fondamentale, perché in realtà senza tecnologia in generale è difficile fare didattica. Si può insegnare sotto un albero, ma l'albero serve sostanzialmente, quindi la mediazione didattica comunque è basata su elementi di tecnologia, dalla penna al quaderno, insomma, e il fatto che oggi le tecnologie siano digitali è semplicemente una trasformazione in corso d'opera. diciamo, vicina sicuramente. Certo, l'umanità ha sempre usato la tecnologia, oggi la tecnologia la consideriamo come qualcosa di alieno, di esterno, non come una naturale evoluzione dei nostri aspetti biologici. Nicola Frega, molto velocemente, docente all'Università di Calabria, tu hai provato, hai testato per primo gli ebook, cosa puoi dire sulla difficoltà ergonomica che hanno sottolineato molti ascoltatori? Vabbè, sull'ebook velocemente, anche sui metodi di apprendimento abbiamo avuto delle esperienze qui in facoltà. Comunque sull'ebook due cose sono false: per esempio non è retroilluminato, quindi non stanca la vista, uno. Secondo, non è affatto interattivo, non è uno schermo per computer, quindi non può essere utilizzato per interattività, infatti sono due cose diverse. Che questo secondo me è un grosso limite, comunque non capisco che non può essere messo in rete l'ebook. Viene implementato proprio il paradigma del segnalibro, dalla sottolineatura, c'è già implementato l'ebook, quindi si può sottolineare, firmare, diciamo autografare e così via, e vengono memorizzate tutte queste informazioni. Però non è interattivo sulla ricerca, si può mettere un segnalibro, ma non c'è un motore di ricerca interno. Il refresh è molto lento, quindi non può essere utilizzato. La tecnologia dell'ebook si chiama e-ink, cioè l'incrocio elettronico, che ristampa praticamente la stampa su questa carta virtuale praticamente ogni volta che viene cambiata la pagina, quindi non potrebbe andare bene per un computer perché sarebbe stancante dall'altro punto di vista per una situazione interattiva. Quindi non troverete mai un computer con lo schermo dell'ebook e un ebook con lo schermo del computer. Quindi ecco, sono oggetti diversi. Dovevi dire qualcosa, Lutito, un attimo? No, quando prima ho parlato della ricercabilità del testo, ovviamente mi riferisco a quello che la tecnologia consente di fare, che sia possibile farlo oggi, no, ma che si possa fare prossimamente, una delle cose, uno dei vantaggi più importanti che questa tecnologia può consentire. È chiaro che uno strumento allo stadio nativo ha poche funzioni che poi andranno evolute nel tempo. Nicola Frega, sei d'accordo che è in corso d'opera l'evoluzione? Abbiamo in mano qualcosa che assomiglia ai primi Commodore 64 rispetto alle macchine che usiamo oggi, ecco. Anche a distinguere, anche tra gli vari ebook presenti sul mercato, ce ne sono alcuni che sono open source come sistema operativo, quindi sicuramente queste cose stanno, diciamo, in via di implementazione, altri che sono un po' più chiuse, per esempio quello Amazon, nella prima versione, come ricordo io, consentiva soltanto di avere i PDF che Amazon certificava provenire, diciamo, con i diritti, diciamo, giusti, non si poteva mettere per esempio un proprio PDF autogenerato da un proprio articolo, per esempio sul Kindle. Quindi per spiegare per chi ascolta, il Kindle di cui parlavamo all'inizio, che può accedere alla grandissima biblioteca informatica di Amazon, legge soltanto la roba prodotta da Amazon, non è che ci potete leggere altra roba, e questo comunque è iniziata, benvenuti nella guerra degli standard, che naturalmente non potrà che continuare in un campo che è anche un grosso business, no, Lotito? Sì, beh, è un business enorme perché non sappiamo dove potrà portare. Io vorrei solo ricordare una cosa di quello che è successo negli anni Ottanta, quando si diceva che avremmo finito di usare la carta grazie all'arrivo dei personal computer. Tra l'arrivo del Macintosh nel 1984 e 10 anni dopo, a metà degli anni 90, l'uso di carta è aumentato di 19 volte nel mondo. Cioè una tecnologia, questo perché? Perché abbiamo cominciato a stampare tutto, e le nostre scrivanie, che prima del computer avevano pochi fogli, sono diventate dei monumenti di carta. Quindi l'utilizzo di queste tecnologie in futuro non necessariamente eliminerà l'utilizzo della vecchia carta. Grazie Gian Piero Lutito, ringrazio anche Paolo Ferri, Giovanni Biondi, Ivan Sciapeconi, Nicola Frega e tanti che hanno telefonato, molti uomini devo dire. Non vorrete confermare il terribile luogo comune che a quest'ora le donne stanno a casa a fare il sughetto e non intervengono? Vedremo, alla prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.